sincera come l'acqua di un fiume di sera, trasparente pur sembri nera. Amore caro, amore bello, non ti voglio più. Ho visto cattedrali di luce nel cuore, troppo sole può fare morire. Amore caro, amore bello, non ti voglio più. Un uomo, ma chi è? Non dire che assomiglia a me. Le mani non le ha, oppure sì? E poi cosa? Cosa accade? Tu non parli e non piangi stasera, come un bimbo mi guardi severa. Io soffro tanto, tanto ma tanto, non ci credi? Eppure forse hai ragione, che strano. Improvviso mi sento arlecchino.